Allora, pensi di stare meglio? Punto di domanda. È un fumetto che ho scritto negli ultimi 2 anni ed è nato in concomitanza con, sono 2 anni che ho iniziato un percorso di terapia con una psicologa e piano piano si sta costruendo vedendo quanto fosse fumettabile la mia psicologa, che è una persona, oltre a una grandissima professionista, è una persona molto simpatica. Quindi avevo questa intenzione, che volevo un po' raccontare di lei, mi faceva ridere alle nostre sedute, oltre chiaramente ridere, c'è tutto il ventaglio di emozioni che può avere una seduta di psicoterapia, e c'è questa storia, quindi questo dialogo tra la psicologa e il paziente, narrato tramite invece un'altra storia, che è invece potrebbe essere più una classica storia d'amore. Quindi con l'espediente di una commedia romantica, diciamo, invece c'è tutta la parte molto più intimista, che è quella del paziente terapeuta. Ecco, diventa un po' paziente di un terapeuta anche chi legge il libro, il fumetto, o meglio, a me ha fatto anche un po' questa sensazione, mi ha dato anche questo. Dopo aver finito di leggerlo mi è sembrato un po' di aver fatto anch'io una seduta. In generale, per quando io narro delle storie, io ho un'urgenza, un mio universo personale, diciamo. Chiaramente, per rispetto delle lettrici, dei lettori, dal mio universo personale, l'idea è sempre quella di tradurlo in un personale universale. E quindi sì, io mi metto in dialogo con la mia psicologa, però in realtà è un espediente per mettersi in dialogo con tutti, con le lettrici, i lettori. Ecco, a proposito del tuo universo personale, compaiono dei personaggi che fanno parte di questo universo, sì, in questo caso immaginario, come ad esempio Batman o la polizia queer. Ecco, ti va di raccontarci questi personaggi? Allora, ci sono, guarda, oltre Batman, la polizia queer, ci aggiungo anche Caterina delle Grotte, che è una mia carissima amica. Sostanzialmente sono 3 voci che sento. Ora, detto così, sento le voci, subito si pensa male, però in realtà l'idea è quella di 3 voci diverse, questo cerbero di emozioni, diciamo una voce forte, una voce, quella di Batman, una voce machista, di me, figlio del patriarcato, dal quale chiaramente vorrei decostruirmi. La voce del queer police, che invece è la voce del mio orientamento, sia, cioè, del mio intervento politico, e la voce di Caterina, che è invece una persona a cui, vabbè, devo tutto, le voglio un bene dell'anima, e invece lei è la voce della cura. Tutte voci che ascolto, ma non avranno nessun valore finché non espongo la mia di voce. Cioè, l'idea anche quello della terapia mia personale è quella del io posso ascoltare tutti, ma finché non ascolto me stesso non avrò nessuna risoluzione. Cioè, chiaramente parte da sé il miglioramento, qualsiasi azione parte da se stesso. Ecco, per scrivere questo fumetto, oltre a prendere ispirazione, immagino, dalla tua vita, appunto dalle sedute con la psicologa che ci raccontavi anche prima, vedo che compare anche un po' di musica qua e là dentro il fumetto. Ti ha dato ispirazione anche la musica mentre scrivevi, visto che siamo in una radio? Guarda, sì, ci sono 2 canzoni specifiche. Ah, ma poi aspetta, dopo questa intervista cacciato una canzone, sarebbe perfetto. Sì, certo, cioè, anzi, se ci vuoi consigliare una canzone che può fare da colonna sonora a questa intervista. Nel fumetto c'è Tom Jones, It's Not Unusual, in un momento di lui particolarmente, cioè il protagonista, che è me stesso camuffato, però il protagonista, particolarmente entusiasta dopo una rivelazione, parte a questo motivetto particolarmente allegro, quindi quello la consiglio. Comunque no, per quanto riguarda la musica, io ho un rapporto realmente quasi ossessivo, cioè io ascolto, lavorando come freelance a casa da solo, ascolto credo 12-13 ore di musica al giorno, cioè, che mi tiene compagnia e mi stimola anche. Veramente vitale l'ascolto della musica, sia per rilassare che per, anzi, accentuare. La musica ha il potere della musica, lo conosciamo tutti. Bene, Edo, grazie mille per averci raccontato qualcosa di più su Pensi di stare meglio, che è uscito, appunto, ricordo ancora una volta, per Minimum Fax. E niente, se lo presenterai qua a Bologna ci vedremo in giro. Va bene, dai. Ciao Radio Città Fucico!